Che nel paese della politica spettacolo toccasse a un uomo di spettacolo ridare fiato a un dibattito politico esausto era in fondo inevitabile. Che la sinistra italiana, intontita com'è da quando gli elettori l'hanno estromessa dall'unico campo sul quale negli anni scorsi aveva puntato le proprie carte, quello della gestione del potere, avesse bisogno di un'energica scossa, era fin troppo evidente. La destra è sempre di più all'offensiva, si sa che quando un nemico dà fiato alle trombe bisogna saper suonare le proprie campane, e che i Rutelli, Fassino e gli altri esponenti del coté margheritesco uvivista non fossero in grado, per formazione, tendenze, cultura e capacità personale, di far uscire l'opposizione dall'impasse in cui si era cacciata da sola, lo avevano capito un po' tutti. Se Nanni Moretti non avesse colto l'occasione di una manifestazione romana particolarmente depressiva per salire sul palco, chiedere la parola e strigliare a dovere quei quadri dirigenti, con particolare riguardo all'area di esse, prima o poi ci avrebbe pensato qualcun altro. L'evento, insomma, era atteso e per i destinatari di quelle rampogne il suo avverarsi deve essere stato vissuto soprattutto con un senso di sollievo, un po' come quello del discolo che sa di dover essere punito e quando arriva il momento degli scuraccioni pensa, beh, finalmente ci siamo. In effetti, il clamore che ha suscitato il regista di Bianca, se posso citare il suo unico film che mi sia veramente piaciuto, è stato in un certo senso incredibile. I destinatari della sua sfuriata, ben lungi dall'esortarlo come sarebbe stato più che lecito attendersi a fare il suo mestiere e a lasciarli lavorare in pace, si sono affrettati a chinare il capo, assicurando che sì, di quelle critiche sentivano proprio il bisogno e che sarebbero stati lieti di discuterne da pari a pari in qualche prossima e solenne occasione. Hanno garantito che dal punto di vista di un intellettuale così noto, di un artista tanto apprezzato, non avrebbero né saputo né voluto prescindere, è come se gli intellettuali e gli artisti avessero in politica e in democrazia uno status superiore a quello del comune cittadino, è come se i punti di vista politici traessero la loro validità non tanto dalla fondatezza e dalla coerenza interna, quanto dallo status di chi li esplicita. E se un atteggiamento del genere era affatto spiegabile da parte dei dirigenti dell'Ulivo e della Margherita, in fondo si trattava, come ha fatto notare il perfido Vauro, dell'atteggiamento naturale di due povere comparse di fronte a un regista famoso, molto più sorprendente è stato il credito che all'improvvisato tribuno hanno concesso i commentatori seri e la grande stampa. Da un momento all'altro i principali quotidiani del paese, dalla Repubblica alla Stampa al Corriere, si sono riempite di editoriali che raccomandavano alla sinistra di non seguire dei consigli tanto pericolosi, perché sì, certo, fare l'opposizione va bene, specie con un governo come questo, ma purché sia un'opposizione seria, di quella che non contesta la legittimità governare dell'uomo di Arcole e dei suoi pur discutibili alleati. Come se dal palco di quella piazza romana si fosse levato un invito capace di smuovere l'anima barricadiera di una sinistra perennemente allergica al riformismo e sempre in fremente attesa della rivoluzione. Io, come saprete, per la prospettiva della rivoluzione ho sempre avuto una certa malcelata simpatia, ma Moretti, santi Dio, non l'ha certamente evocata. In realtà, se devo dirvi proprio come la penso, non mi sembra che abbia detto proprio niente di speciale. Ha detto, oltre a una quantità di sciocchezze a proposito di Berlusconi che ha vinto le elezioni facendo compravendita di voti televisivi sotto la protezione squadristica di Emilio Fede, che sono cose che fa sempre piacere sentir dire, figuriamoci, ma rivelano una preoccupata incapacità di comprendere i motivi del trionfo della destra del paese, il coagulo di interessi materiali, egoismi di classe e povertà culturale che lo ha reso possibile, che ha detto che con questi leader qua non vinceremo mai, che non è quella gran scoperta, e che bisognava allearsi con Di Pietro e con Bertinotti, che a lui sta come noto antipatico, ma non si può far finta che non esista. Ha fatto cioè il discorso più terra a terra possibile, evitando con cura lui, l'uomo di cultura, l'analista raffinato del disagio sociale, e qualsiasi tentativo di mettere in discussione il tipo di politica che ci ha portato a questo punto. E questo, porca loca, proprio non va. Alle scarse prestazioni dei leader disponibili non si rimedia, naturalmente, tirandone fuori dal cappello degli altri, magari un po' più tosti, un Rutelli con qualche grinta in più, un fascino che non abbia così evidenti sul volto le stimmate del travè di federazioni. Vi ci si rimedia lavorando a un soggetto politico vitale dal cui seno, grazie al dibattito e al confronto, possano davvero emergere delle personalità dirigenti degne di questo nome. Ed è difficile che ci si arrivi, che si arrivi a tanto, se tetragonicamente ci si rifiuta per partito preso di mettere in discussione le scelte che hanno portato alla situazione attuale, come a dire, la pretesa di fare concorrenza alla destra sul suo stesso campo, a costo dell'appiattimento sul maggioritario, sullo status quo sociale, sulla guerra, su tutto il resto. Perché il problema in definitiva non è quello di essere troppo remissivi con Berlusconi, che tanto a tenere le distanze ci pensa benissimo lui, ma è quello di non essere troppo remissivi con se stessi, con la propria storia, con le proprie scelte, perché la politica è una cosa seria e non si può ridurre a una questione di buona volontà o di carattere più o meno deciso. Moretti naturalmente fa un altro mestiere e a queste cose non è tenuto a saperle. I suoi interlocutori invece sì. E il fatto che si siano trovati così serenamente d'accordo con il loro improvvisato fustigatore fa capire che ne hanno subito riconosciuto gli argomenti per quello che sono. Aria freschissima, di quella che lascia esattamente il tempo che trova. Insomma, il carnevale è alle porte e l'occasione è propizia per l'ennesima mascherata. Va detto che a parte i personaggi di cui abbiamo appena parlato, c'è qualcuno che sul futuro della sinistra le idee chiare ce le ha. Secondo un titolo di Libero, un quotidiano che normalmente mi guardo bene da leggere, anche se me ne mandano ogni tanto una copia in omaggio, so solo Dio perché, ma che mi è capitato di sbirciare tra le mani di un signore seduto accanto a me in una istituzione che di questi tempi mi capita di frequentare, il 26% di quanti hanno risposto al sondaggio telematico lanciato da un noto portale italiano sono favorevoli a che Berlusconi assuma l'interim dell'Ulivo. Che idea straordinaria, mi sono detto. Ammetterete anche voi che sarebbe la soluzione perfetta di un problema difficile. Mi sono chiesto naturalmente quanti tra quel 26% di intervenuti facciano parte magari in posizione dirigente delle attuali organizzazioni in cui si articola quella che si suol chiamare l'opposizione. Anzi, appena ho potuto sono andato a controllare, ma ahimè il sondaggio non c'era più, perché quel portale ne organizza uno al giorno e quello di quando mi sono collegato io ormai riguardava l'opinione dei cittadini sul ritorno dei Savoia. Mi è restata una curiosità che mi tormenterà per un pezzo.